non son chiacchiere da barba. Chi non lo sa, SS Downtown, quanto parla la città, morto che parla una Kragubara. E già Rusei Goppa, non son chiacchiere da bar. Chi non lo sa, non son chiacchiere da barba. Chi non lo sa, SS Downtown, quanto parla la città, morto che parla una Kragubara. E già Rusei Goppa, non son chiacchiere da bar. Chi non lo sa, benvenuto in SS Town, Sex and the City, droga e rock and roll nel round. Di Maria, De Filippi, amici, uomini e donne, quelli sì che sono fighi. E spegnendo la TV diventate tutti tristi, quindi via, ci vanno sotto SMS, MSN, MMS. Sai che quello mangia più pastiglie che M&M. Sai chi sono, quello che t'ha detto, quello che è un amico di quell'altro che m'ha visto attaccato al palo. La maggioranza accetta, o meglio dice, se va bene a lui anche io son della setta. Esco 7:30 aperitivo in giro e scambio chiacchiere che posso scriverci già un libro tipo Bibbia. Io Giuseppe Cristo, sempre più convinto, credete a tutto quello che vi passa, ma si sa, l'obiettivo della massa è di farti così a pezzi che di qua ogni carcassa passa all'aldilà con un volo low cost dell'Air One. È uno stress e so che Sassari non vuole parlarmi, vuole aspettarmi per pestarmi e darmi il resto. Ed è il resto, si parla di me, si parla di te, ma io di te, di te, di te, di te me ne disinteresso. E nonostante io mi ostini a dare per le porci, nonostante mi dimostri ostile a questi stronzi show, nonostante non c'ho il vostro contante, non sono snob e dai vostri gossi prendo distanze. Io mando giusti scemi, mischio rum e scleri e insisto su sti sistemi. Vedo persone morte in città nel mentre annego mosche da bar come Steve Buscemi. Mi prendo il solito in quantità, la mia identità resta in incognito. Mi esonero dai soliti tran tran, dai soliti bla bla, dalle bordelle chat, perché quello che sono è l'opposto a quello di che la gente sa. Non son chiacchiere da barba, chi non lo sa, SS Downtown, quanto parla la città, morto che parla una Kragubara. E già Rusei Goppa, non son chiacchiere da bar. Chi non lo sa, non son chiacchiere da barba. Chi non lo sa, SS Downtown, quanto parla la città, morto che parla una Kragubara. E già Rusei Goppa, non son chiacchiere da bar. Chi non lo sa, ti rende piatto parlare da distratto, scontato vivere in un mondo veicolato. Passa parola a questi dati, dillo pure agli altri che siete informati, ve l'han detto i vostri amici fatti. Hai il cervello in testa che fa da assorbente, assumi poi mi dici la versione più recente. Coltiva la tua immagine da fiction fragile, ti demolisco fino all'apice, insisto, tu gridi Cristo. Sassari, caro diario, sai mi suona strano se mi puntano le armi a caso sul primo cristiano. Boiate disumane, son qua per smontare soggetti andati a male, rincoglioniti da leggende urbane. E gira voce che tira dal naso, lei la tipa che han sventrato dentro il cesso per caso. Succede, c'è sempre chi vede, ma non mi fotte un cazzo di sapere. Belli, già siete persone serie. Nella strada, nelle vie, con tutti quegli infami, gente rada, amico spie e colli modigliani. Mi hai visto su YouTube e pensi sei un fascista. Vedi nero come tua madre con Nigga che le infiltra. Beppa non sta male se lo vedi dimagrito, non è depresso né malato, siero positivo. Se vuoi lo chiamo adesso, sono ancora vivo. In realtà non è Francesco ma è il suo gemello cattivo. E non sei figo se ti fai due gocce e poi ti tiri al muro, se ti scheggiano quei bocci e poi ti tiri il muro. Ne spari troppe culo a terra da rinculo. Siete personaggi, avete perso gaggi di sicuro. E c'è visto con le greffe ballando sui tavoli, mandando più pizzette di tutta quanta Napoli. Pogu Fabedi, Poguni Zedi, Poguni Vedi, di Budu Boom Boom, c'è Ciaramedi. Non son chiacchiere da barba, chi non lo sa, SS Downtown, quanto parla la città, morto che parla una Kragubara. E già Rusei Goppa, non son chiacchiere da bar. Chi non lo sa, non son chiacchiere da barba. Chi non lo sa, SS Downtown, quanto parla la città, morto che parla una Kragubara. E già Rusei Goppa, non son chiacchiere da bar. Chi non lo sa. Oh, MCP, HG, è Tatarima, sci 2009. Fatevi un cugnone, diglielo, di cazzi diglielo, vostri, oh. Fa bene da bene. Mashi, morto che parla, Aso Music, non mi ne affutti nulla. Abituatevi, questa è Sassari, Mashi. Ammazza di, ammazza di. Ma vai e sparati, vai. E già Rusei, Mashi, Ghicarà Sassari, Diriciaramedi. Piazza Tola, piazza Peschetteria, pompieri zombie. E già lo sai, questo è il fondo. Recita preghiere, alla rovescia ti rispondo.